podcast di Gnu Funk, Gnu dedicato a musica libera e all'audio fatto con software open source e software libero. E in questa puntata c'è Carlo Ratm in collegamento da Quarrata. Ciao Carlo. Ciao. Ciao a tutti, piacere risentirvi dopo tanto tempo. Ci eravamo sentiti, abbiamo fatto l'intervista e poi intanto ti abbiamo preso in giro, ma in buona fede. Certo, ma è facile prendere in giro me. Sì. E allora, in questa puntata abbiamo un mucchio di roba. Cominciamo con i riferimenti che sono il sito, che è quello di Gnu Funk, gnufunk.org, il sito della radio che è associata, che è radio.gnufunk.org, l'email info@gnufunk.org e il numero di telefono per la nostra segreteria, che è lo 02 303 123 123. A questo proposito, se posso permettermi di segnalare che il sito è cambiato, abbiamo il sito nuovo su Gnu Funk. Oh, ma mi sento... Sì, abbiamo il sito nuovo che ha curato Carlo, e a giorni andrà online, spero, assieme al podcast. Sarebbe l'ora. Sì, sarebbe l'ora. Drupal veramente è il software, secondo me, peggiore che sia mai stato scritto. È orrendo vedersi, è orrendo il codice, ma adesso siamo passati a un altro software orrendo, che è WordPress. Esatto, perché alla fine anche WordPress non è che sia... È oscena, una cosa oscena. E niente, cominciamo con il CC Festival. E anche questo, diciamo che è una delle cose in cui ti sei intrufolato. Sì, diciamo che secondo me siamo stati segnalati da grandi lihaoni che sono lì di Livorno, e infatti questo festival è appunto a Livorno. E andate sul sito ccfestival.wordpress.com, scritto ccifestival.wordpress.com, c'è il programma. Hanno 2 giorni sulle licenze libere in un centro sociale a Livorno. Mi sembra molto tranquillo come cosa. Sì, fra i diciamo, ci sarà una specie di conferenza su Creative Commons, ci sarai anche te e ci sarà forse qualcun altro della radio. 13-14 febbraio a Livorno. Speriamo ci sia qualcun altro. Ma lo sai che è la nostra pigrizia. Soprattutto la mia. La tua pigrizia ti precede. Poi, intanto, li salutiamo ovviamente e li ringraziamo per averci invitato. E speriamo che venga al festival, speriamo che tu sei talmente bravo che riesci a registrarlo per la radio. Speriamo sì, però mi devo portare dietro un po' di roba. Vabbè, dai, si guarda come fare, magari andiamo anche in diretta. Sarebbe bello farlo, così abbiamo un po' di materiale per la radio. Che sicuramente la conferenza è interessante, se viene fuori come quella di Quarrata, visto che le persone bene o male sono quelle più altre persone, secondo me è interessante registrarla. Sì, magari. Dopodiché parliamo dell'Ubuntu Free Culture Showcase, che cos'è? L'avevamo già, secondo me, mi sembra che l'avevamo già segnalata l'anno scorso. Fondamentalmente, così ogni anno Ubuntu cerca del materiale audio-video con licenza Creative Commons. La gente praticamente dà questo materiale a Ubuntu, che lo seleziona, e il materiale migliore verrà incluso nelle distribuzioni assieme alla distribuzione, quindi tanta gloria, e chi vuole partecipare lo può fare, gloria eterna, perché viene installato su milioni di PC. Io non dico nulla, non uso Ubuntu. Okay. Ah già, spiegaci un po' cosa usi. Arch Linux, che è una distribuzione che diciamo tenta di applicare il principio del keep it simple. Praticamente che fa? Installa un sistema Linux base e tutto lo devi configurare completamente a mano, quindi non è per chi vuole avere la pappa pronta, ma per chi ama diciamo l'ottimizzazione massima, ecco, diciamo sì. Di certo non è da consigliare a qualcuno che si vuole avvicinare per la prima volta a Linux così. Quali differenze ci sono fra Arch e Gentoo? Tu sei veramente un bastardo, lo sai. Lo so, perché questa è la domanda di fondo che tutti si chiedono. Io non conosco Gentoo. Me la so cavata bene, no? Sì, Gentoo l'ho usato nel 2002, credo. Fino a quando mi si è rotto fortunatamente il disco e non lo userò mai più. Fondamentalmente compila tutti i pacchetti, che è una menata indicibile. E le prestazioni su Arch non è così, non compila tutti i pacchetti. Cioè puoi anche decidere te di compilare tutti i pacchetti, però cioè c'ha i suoi repository con i pacchetti per l'effatti. In più ha un repository centrale di tutti gli utenti, e se installi roba da quel repository lì, sì, compila e risolve le dipendenze lui, cioè è avanzato come sistema, diciamo, secondo me, rispetto a Gentoo, però con gusti, dai. Chi è che lo diceva prima, che le distribuzioni in canale dicevano che le distribuzioni Linux sono come il caffè, ognuno prende un caffè in modo diverso. Lorenzo Sullo diceva, ecco. E poi parleremo ancora di Lorenzo Su, perché c'è la mega intervista che abbiamo fatto a Lorenzo, che è una ragazza di Roma che ha studiato musica elettronica, ha studiato chitarra classica, usa pure Data, e l'intervista è molto interessante. E poi parliamo delle novità audio, dal mondo audio. C'è un bel articolo riassuntivo che ogni tanto Paul Davis fa su Linux Journal, che me lo vado a riprendere, in cui segnala le novità. Adesso si carica. Allora, Paul Davis segnala di interessante l'uscita di Muse 1.0, che è un sequencer, fondamentalmente fa anche altro, nel senso che registra anche audio, ma credo che la cosa principale è che sia un sequencer. Ce l'hai anche aperto anche te, sta pagina del News Journal? Sì. Però poi... aspetta, perché non so se ho aperto quello giusto. Sì, dai, è questo. Poi sì. Parla di Fluid Synth, che è il sintetizzatore di Soundfont, che è uscito dalla versione 1.1.1. Poi di interessante c'è una GUI alla JConv, che è uno splendido riverbero scritto da Fons Adriansen, Guitar X. Spero di averlo pronunciato. Sì, Guitar X, anche io non l'ho mai usato. A me piace. Certo, no, non sostituisce secondo me dell'hardware, però è bello, soprattutto ha sviluppato molto e molto nell'interfaccia, che è la cosa che mi interessa più a me, e davvero stanno tirando fuori dalle GTK qualcosa di bello secondo me. Ho visto gli screenshot, c'è qua uno screenshot, a parte che è della GUI di Gencom, ma ho visto anche quella di Guitar X, notevole. Poi Arduro cita 284, 285, 286, che sarebbero le ultime, si spera, release prima della 3. Mm. La 3 introduce di grosso il MIDI. Il MIDI, tutta la parte di sequencer del MIDI. E poi cosa c'è di bello? Jack Capture nuovo, che è un utility da riga di comando per registrare al volo se non si vuole aprire Arduino. Per fare cose semplici basta da riga di comando lanciare Jack Capture, dirgli quali jack della patch bay di jack usare e lui registra. Mai usato. No, può essere utile. Prima qualche giorno fa in mailing list qualcuno chiedeva, doveva registrare un anno ininterrotto, non so se avevi visto. Ah sì sì, l'ho letto, sì. Voleva registrare un anno ininterrotto di suono, che è notevole come cosa, e tutti gli hanno fatto notare la cosa, e oltretutto una marea di canali se non sbaglio, e una cosa che gli hanno fatto notare è che la cosa più drammatica è il disco, gli avevano calcolato 24 tera, una roba del genere. Probabilmente un jack capture, secondo me, può anche farci, forse, perché poi bisogna tenere aperto un file da 24 tera. Ma esisterà un file system che lo regge un file da 24 tera? Credo che su un'architettura 64 bit forse lo regge, non ne ho la più pallida idea. E poi segnala i soliti gioielli in LV2, che sono gli Linux di DSP, che sono purtroppo proprietari ma sono stupendi, gli Invada e i Calf, che non lo sono e sono buoni. Sì, assolutamente. A Calf segnalo che è uscito, almeno nella versione di Subversion, che anzi è su Git, sì. È uscito anche un bellissimo compressore a 4 bande, sempre del Calf, che chi fa master, fa dei master, un compressore a 4 bande, non lo si butta via. È un Dessler anche, che prima non c'era, del Calf. Scusa, non ti ho sentito. Hanno fatto un Dessler della Calf. Sì, quello devo provarlo. E poi Fado, che è diciamo la parte in user space che si appoggia a jack per l'interfaccia FireWire, sta lavorando con il nuovo modulo FireWire del kernel, che è cambiato secondo Palmer, che è il principale sviluppatore, è cambiato decisamente in meglio, in modo più trasparente per Fado, quindi probabilmente Fado diventerà ancora meglio di quello che è già adesso, un ottimo prodotto. Sia io che te lo usiamo in modo, credo, soddisfacente. Sì, al 100%. E poi la parte, sempre Paul Davis segnala la parte di close source. Cos'è che segnala? Renoise 2.5, direi, come piano tech, come grossa cosa. E piano tech, che è un, puoi spiegarlo te cos'è? È un software che praticamente simula dei pianoforti, delle tastiere, che però io non ho provato ovviamente perché costa anche parecchio. Preciso costa, quanto costa? 249 se non sbaglio. Lo so perché mi fa gola. Fondamentalmente è una un'emulazione a modelli fisici di un piano. Non ha, secondo quello che dicono loro, nessun sample, ma viene tutto sintetizzato. Ha una marea di opzioni, funziona out of the box con jack, e ci si può fare associazioni MIDI per controllare per esempio l'emulazione dei pedali di un piano, l'apertura della parte sopra del piano, non so come si chiama, o la posizione dei microfoni. Eccezionale. E poi è uscito un nuovo manuale di Ardour, è stato scritto dalla comunità, che si affianca al ormai vecchio manuale ufficiale di Ardour, che risente un po' dell'età. Ardour è sempre, come tutti i software open source, di solito i sorgenti sono sempre molto più avanti dei manuali. Sì, il vecchio manuale, cioè, io personalmente sconsiglio anche di seguirlo, perché cioè, è praticamente inutile. Invece quello nuovo mi sembra fatto bene, speriamo che migliorino anche la traduzione in italiano, dato che siamo abbastanza in argomento. E poi è uscito Hydrogen nuovo, che non ho capito chi è che l'ha scritto, se l'ha scritto e continua a scriverlo questa la tagliamo. È uscito Hydrogen nuovo, che una cosa interessante che ha è l'inclusione della libreria del Rubber Band, che è una libreria di stretching, di stretch audio, che ormai viene inglobata da diversi software, e è molto bello anche graficamente. E quindi adesso in Hydrogen si possono anche importare dei loop wave, e si può fare audio stretch per syncare i loop con il sequencer interno di Hydrogen. E sempre per Hydrogen il canale ha sfornato che poi io, te e Emillo hanno scritto, Emillo l'ha scritto ormai anni fa, un drum kit della sua batteria, che ancora adesso secondo me è molto molto bello, e poi ne hai registrato uno te, che suona veramente bene. Vi consiglio di provarlo, non è ancora pubblicizzato in giro, ma perché deve essere limato ancora giù. Sì. Vabbè, sei uno di quelli che bada alla perfezione. No, è che in realtà non mi è anche passato di mente. E quindi poi lo pubblichiamo sul sito. Sì, il tuo... per ora è un po' imboscato. Ma lo devo dire dov'è o no? Okay. Ma se c'hai un URL... Ce l'ho, però fa schifo, aspetta. No. Vabbè, lo scriviamo sul post. Sì, va bene. Ma che casino fai? La sedia, che non riuscivo più a stare seduto, mi sono cambiato posizione. Che sta sedia non va bene in studio perché fa rumore. E poi ne ho scritto anche, no, ho registrato uno anch'io, però è pessimo, quindi non lo usavo. Non è vero. Dai, ma io l'ho registrato in mezz'ora. ma... che la dice lunga sulla sua qualità. Ma dai, ma invece è da provare. Cioè, i piatti sono veramente buoni. Bene. Sì, non mi piace effettivamente la cassa. Ma la cassa, secondo me, tu hai sbagliato a comprare la batteria. Hai comprato la cassa troppo piccola. Ma la cassa piccola viene. No, non può suonare bene una cassa piccola. Se lo dice un batterista, mi fide. Comunque, dopodiché anche Audiofile ha detto che lo registra il suo drum kit nel suo nuovo studio con le batterie che ha in studio. E parliamo quindi del Cubi Studio. Oh, finalmente. Che è lo studio di Audiofilo, che tutti conoscete. Che fra poco parlerà nel suo classico angolo dell'angolo di Audiofilo. Del fonico, l'angolo del fonico. Del fonico. L'angolo del fonico curato da Audiofilo. O l'angolo dell'Audiofilo curato da un fonico. Il Cubi Studio, che l'indirizzo è cubistudio.it, giusto? Sì. Proviamo. Cubistudio.it, che adesso non c'è ancora niente perché lo stanno facendo. Sì, sì, in effetti. È il primo, e se non è il primo vi preghiamo di smentirci, perché saremo i primi a pubblicizzarlo. È il primo studio di registrazione professionale che adotta Linux software libero per registrare a livello professionale, non a livello di come faccio io, di hobby e di home studio. E certo, ci sono anche i Cricket Studio a Bologna, ma che sono per i bolognesi, ovviamente ve lo consigliamo. Direi più, ma il Cubi, che il Cubi è un, cioè, forse è il primo commerciale, diciamo, cioè proprio sì, che per attività fa quello, sì, ecco. Sì, il Cubi Studio per 24 ore al giorno è uno studio professionale commerciale che si trova a Bologna in via Carlo Botta 13, Milano. A Milano, comodissimo, fermata zona di Porta Romana, a 100 metri dalla fermata, e se volete informazioni scrivete ad Audiofilo, che fa il fonico al Cubi. Se volete registrare in modo libero, in modo professionale, contattatelo. Sì, o lui, o se no scrivete a info@cubistudio.it. Se no potete anche venire in canale e chiedete di lui, o anche no. E adesso lanciamo l'angolo del fonico a cura di Giorgio Bau. La sigla. Yeah. Buongiorno a tutti e bentornati all'angolo del fonico dopo la pausa invernale. Alcuni di voi sanno che a Milano è stato realizzato uno studio di registrazione che è basato su software libero. Questo studio di registrazione si chiama QBStudio, scritto con la K, e trovate informazioni all'indirizzo www.qbstudio.it. Questo io non lo dico per fare pubblicità alla mia attività, ma lo dico perché oggi parleremo di una registrazione effettuata al QBStudio, appunto, di recente. Una registrazione molto particolare vista la caratura dell'artista e vista la tecnica utilizzata. L'artista in questione è Andy Just, non tutti lo conoscono, è un bluesman, un armonicista, è americano, proviene dalla California e ha più di 30 album all'attivo come ospite e come album, diciamo, solisti, e la sua collaborazione più importante è con il grande chitarrista americano Robben Ford, con cui tuttora suona. Dunque, Andy Just è in Italia, sta portando avanti il suo tour e aveva bisogno di un disco nuovo da portare in tour e ha scelto il QBStudio. Come molti di voi immaginano, registrare blues diciamo che contempla l'utilizzo di tecniche diverse, soprattutto per la tipologia di musica suonata. Infatti la prima necessità è che venga fatta una presa diretta dove i musicisti siano in grado di guardarsi, di scambiarsi, diciamo, dei segnali per quando passare da una parte all'altra della canzone, per quando chiudere. Al QBStudio non è presente una sala di ripresa molto grande, ce ne sono tre abbastanza piccole, medio piccole, e diciamo che mettere insieme tutti i musicisti nella stessa sala sarebbe stato molto rischioso, soprattutto per la qualità audio. Quindi si è deciso di fare un setup particolare. Si è deciso di fare una presa diretta in due sale, dividendo quindi i musicisti in una sala e in un'altra, e con linea video, perché le sale non sono collegate da vetri e quindi non è possibile per i musicisti vedersi. Pertanto è stata realizzata una linea video con telecamere e schermi a 32 pollici in modo che i musicisti potessero facilmente vedersi. Dunque, come sono stati disposti? I musicisti sono stati disposti in questo modo. Andy è stato messo in una sala con armonica e la sua voce, perché è anche cantante di questo disco, mentre gli altri tre musicisti, batterista, bassista e chitarrista, sono stati piazzati nell'altra sala. Tuttavia, gli amplificatori del chitarrista e del bassista sono stati messi in un'altra sala, in un'ulteriore sala, che questo appunto per evitare rientri sgradevoli che legano le mani a chi poi esegue il mix. Sono stati impiegati circa 14 canali. La batteria è stata microfonata con cassa dentro, cassa fuori, rullante sopra, rullante sotto, Charleston, tom, timpano e due overhead. Mentre invece il basso è stato ripreso con la DI e con un microfono sulla cassa. La chitarra è stata ripresa con un microfono sulla cassa. Così anche per l'armonica, che entrava in un amplificatore, e un altro microfono per la voce. Il QBStudio ha come banco un Tascam DM3200, il quale permette un routing del segnale molto elastico ed è collegato via work clock alla scheda audio che noi utilizziamo, che è la RME Multiface 2. Abbiamo un totale di 16 canali. Abbiamo anche qualche preamplificatore con cui abbiamo diversificato il suono per non utilizzare tutti quelli del banco, e quindi abbiamo un Focusrite Twin Track Pro Platinum che abbiamo utilizzato sia per l'armonica che per la voce. Abbiamo un Mindprint & Voice che questa volta però è stato scelto di non utilizzare. Il resto sono i preamplificatori del Tascam 3000, DM3200. Quindi, ricapitolando, si ha un musicista in una stanza, tre musicisti in un'altra stanza e gli amplificatori di due di questi musicisti sono in una terza stanza dove vengono microfonati. Tutto questo, come dicevo precedentemente, per diminuire la possibilità di rientri e quindi avere una presa diretta più pulita. I musicisti hanno registrato nell'arco di circa 10 ore 10 brani, musicisti peraltro eccellenti che hanno già di loro degli strumenti eccellenti. La presa diretta è andata piuttosto liscia anche grazie ai 4 mix disponibili per i musicisti, poiché in cuffia ognuno poteva chiedere il mix che voleva, quindi gli strumenti che voleva in cuffia. I musicisti si sono trovati molto bene, ci hanno fatto tanti complimenti e per questo li ringraziamo e li rinvitiamo quando vogliono a trovarci. Il disco è tuttora in fase di mixaggio, non abbiamo notizie sulla data di uscita, ma sappiamo che uscirà abbastanza presto, appunto per accompagnare il tour di Andy Just. Il risultato in sostanza è stata una presa diretta molto pulita, pochissimo rientro, era solo un po' di basso dentro il microfono della chitarra e viceversa, ma sono comunque ampiezze trascurabili che non creano particolare problema all'atto del mix. Per questa volta è tutto, vi aggiornerò se siete interessati sul blog del Cubi Studio e su audiofilo.blogspot.com del risultato finale di questo disco. Metterò se possibile degli ascolti e vi terrò aggiornati magari sull'uscita del disco. Quindi io vi rimando alla prossima edizione del podcast GNU Funk e quindi dell'Angolo del Fonico e vi ringrazio per l'attenzione. Ciao! Che casino fa quell'IBM lì? Sentito? La tastiera. Madonna. Sembra un ufficio degli anni 70 con gli Olivetti. E torniamo in onda. Grazie Audiofilo. E allora, parliamo del LAC. No, aspetta, LAC 0. Come 0? 0, non so niente. Anche dov'è? Ah, Olanda. Allora, LAC è Linux Audio Conference, che ormai sono 5-6 no, sotto. Aspetta, anni ma questo fa. Si può saltare, porca miseria. Diciamo cosa? Questo argomento, diciamolo nel prossimo. Vabbè, ma lo anticipiamo. Se non parliamo del LAC, che va è l'unico bene, che di cui dovremmo parlare. Va bene. So che dire. Tanto al limite, cioè, questo qua va nel prossimo. Ma vabbè, vai. Non so che dire. E cos'è il LAC? Dai, ma che merda. Lo so, d'altronde il conduttore è quello che è, la spalla è quello che è, questi sono i risultati. Dai, saltiamo questo argomento, dai. Ma perché non dobbiamo parlare del LAC? Non capisco perché non dobbiamo parlare del LAC, perché poi magari siamo 2 mesi senza farlo e il LAC è già andato. Non c'è niente da dire, vabbè, vai. Diciamo che c'è il LAC. Vabbè. maggiori approfondimenti. C'è l'H. Maggiori approfondimenti la prossima volta, vai. È l'HAC, che è il Linux Audio Conference, che si tiene tutti gli anni. L'anno scorso si è svolta sfortunatamente a Parma e quindi ti è toccato andare. Vero. Esatto, sono dovuto andare, ho dovuto conoscere della brutta gente. Non ci andrò sicuramente in Olanda dal 1 al 4 maggio 2010. Non ci andrò in Olanda e niente, si faranno le solite menate, presentazioni, workshop, concerti, live coding. Live coding c'era anche l'anno scorso o no? Ma no, fondamentalmente no. Lo scrivono perché fa figo, ma poi nessuno fa il live coding. Bene, finirà come Linux Day alla fine. Sì, esatto, fra 100 anni il LAC sarà come Linux Day. Anche meno. E poi adesso allora lanciamo l'intervista, che abbiamo fatto l'intervista a Lorenzo Su, che ha il suo nick, il suo nome è Lorenzo Sutton. O Sutton, boh. Esatto, quello non gliel'abbiamo chiesto, non sappiamo se è italiano, se è italoamericano o se è veneto, sarà veneto Sutton. Non lo so. No. Sì, sembra inglese, Sutton. Non lo so. Lanciamo questa intervista. No, sì. In realtà l'intervista è andata in onda nella puntata numero 11 del podcast, quindi chi vuole ascoltare l'intervista va su gnufunk.org e cerca il podcast numero 11. Ma lo sai che temo che ci siano parecchi clip nella mia registrazione? Ecco, quello è, diciamo, per un aspirante fonico. Perché non ce l'avevo sotto mano, c'avevo il browser sotto mano. Porca miseria. Ma vabbè, speriamo. Ma tanti finti, o? Secondo me sono finti. Guarda, Ardure, quando vedo un clip è clip. No, non è vero. Sì. Non è vero. Dai, a zero non clip a sentibile. Se te lo mette rossino, è clip. Te l'ho messo rossino. È rossissimo. Ecco. Dai. Ma dall'inizio solo aperti. Ora non posso controllare, giù. Puoi andare indietro un po'. Vediamo un po' se mi fa andare indietro. No, puoi fare. Dovrei mettere che non segue, che la testina non segue il cosino lì. Sì, no. Non farlo che fai no, danno. No, davvero, vai, basta. Cosa c'hai di massimo sul mixer? Io c'ho uno 00. Anch'io. Allora non hai clippato. Per quello, sì, 00 forse non hai clippato. E neanche io. Però è sempre rosso, Anche io c'ho un rosso che mi è venuto prima fuori, però vabbè, dai, se è 00 ma speriamo, dai, giù. Poi lo ascolteremo e vedremo. E niente, dopo questa intervista, e niente, quindi cos'è rimasto? Il post del coso, post di Ardur. Ah sì, bravo, dai, fallo te quello lì. Parla te di quello lì. Io ho parlato fino adesso. Ma te sei il conduttore. Ho capito, ma altrimenti non ti chiamo più se parlo sempre io. No, se parli io faccio gli interventi brillanti. Ah, ok. Anche questa vedrai che questa la metto in loop, questa la frase. Santo Dio. Allora, adesso comunque devo chiedere al Soviet di mandarmi altre spalle, perché non si può andare avanti così. Allora, torniamo in studio dopo esserci ascoltato l'intervista a Lorenzo, e segnaliamo come ultima cosa un post fatto sul blog di Ordur, in cui Paul Davis, lo sai che prima ho detto Paul Davis mi sa invece di Dave Phillips per il mi sa di sì. Ma no, ma cazzo, ogni podcast mi sbaglio, non è possibile. Sì, io non ti ho interrotto perché sai perché sei un bastardo. No, perché per cortesia non si, cioè non si usa interrompere il conduttore. Sì. Grazie per non avermi interrotto. Niente, Paul Davis, che è il principale sviluppatore di Ordur, ha chiesto alla comunità di mandare delle foto dei propri studio. E ne sono arrivate un po', fra cui anche alcune del canale. Ci sono studi di un po' di ogni tipo, da minimali home studio al Cubi Studio, e poi un altro che noi abbiamo ribattezzato come si chiama? Quale? L'Abbey Road. Ah, l'Abbey Road. Sì, è bellissimo. L'Abbey Road che bellissimo, anche solo come le tende, arredamento, sì, esatto. Esatto, l'arredamento è da goduria, in più c'è una strumentazione che fa paura per essere uno studio che lui definisce home studio. Sì, o c'è veramente un sacco di soldi oppure questo non è un home studio, dai, non è possibile. Invece lo studio di Bex è forse quello con più fili nel mezzo. Sì, direi che è il secondo più disordinato, perché non so se hai visto, c'è uno che è molto più disordinato di me. Sì. Quello che è in una specie di cantina con... Sì, è vero. Che ci dorme, lui ha detto che io qua ci dormo, ci vivo, ci mangio e ci suono. Sì, c'è anche un pupazzo impiccato al soffitto, se ci fa caso. Comunque, cioè, l'indirizzo preciso è ardur.org/node/3248, se volete andare a vederlo, vi fa fatica cercarlo. Sì. Poi lo mettiamo sul blog, mm-hmm, così la gente ci clicca, la gente pigra. E niente, chiudiamo con ridicendo i riferimenti. Io devo dire io? devo dire sempre io, l'ho proprio detto all'inizio, te la dice adesso. Allora, il sito di GnuFunk è http://gnufunk.org, si spera sia quello nuovo. Il sito della radio è radio.gnufunk.org, anche il blog della radio. L'email, se volete scriverci, info@gnufunk.org, e il numero di telefono, da pessimo assistente non lo so, 02 303 123 123, e poi il canale IRC, che è la-it sul network di Freenode. E chiudiamo con una canzone di Carlo Ratm, visto che è l'ospite. No, ma... E... Come no? Sì. No, ti prego. Questa è la penitenza che devi pagare. Hai cominciato a scrivere delle canzoni usando un tracker che è Milky Tracker. Sì, ci ascoltiamo questa canzone e ci sentiamo a presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.